Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, oggi voglio partire da un identikit. Andiamo. Ha una passione per le labbra, ma non disdegna le mucose e la lingua. Si annuncia con un forte bruciore localizzato nel punto preciso in cui a distanza di 6-12 ore compariranno le vescicole. Piccole ma molto fastidiose, generalmente raccolte a grappolo, nel giro di alcuni giorni si rompono e si ricoprono di crosticine. Lo avete riconosciuto? Ma certamente, perché non è necessario avere un'esperienza diretta, la febbre, o meglio l'herpes labialis, si vede. E se chi ne soffre cerca di limitare il disagio che queste pustoline recano, chi lo vede sulla bocca dell'altro cerca di prenderne un po' le distanze per evitare, ad esempio, che il bacio abbia conseguenze dolorose e pruriginose. Con 24.000 baci, oggi saprei perché l'amore vuole ogni istante mille baci, mille carezze ora allora. Ma l'herpes si manifesta anche in altre sedi, cambia nome, tirando addirittura in ballo un santo. In Italia il fuoco di Sant'Antonio è diventato il sinonimo per eccellenza dell'herpes zoster. Anzi, si può dire tranquillamente che l'eponimo ha sostituito la denominazione scientificamente corretta per la maggior parte degli italiani, al punto che se il medico vuole farsi capire, è senz'altro meglio che dica «Caro signore, lei ha un brutto fuoco di Sant'Antonio», piuttosto che «Caro signore, lei ha un brutto zoster». In questo secondo caso è quasi certo che il paziente assuma un'aria pensosa oppure che ribatta «Non avrò per caso il fuoco di Sant'Antonio, dottore?» E così la storia degli herpes nella medicina è lunga e molto complessa. Ne parleremo oggi insieme al professor Carlo Gelmetti, direttore dell'Istituto di Scienze Dermatologiche dell'Università di Milano, che al fuoco di Sant'Antonio ha dedicato un libro molto interessante, Springer Editore. Intanto buongiorno professore, grazie per essere tornato a trovarci. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Senta, nel suo libro lei descrive la storia di Sant'Antonio Abate. Era un santo prediletto dai contadini, patrono dei cestai, dei porcai, dei ceramisti, di molte altre professioni, ma era famoso soprattutto per le sue capacità curative e veniva pregato soprattutto per dare sollievo a chi era afflitto da malattie che provocavano dolore, che venivano tutte chiamate come fuoco di Sant'Antonio, ma in realtà erano malattie molto diverse tra di loro. Ma sì, si faceva dire un che... po' di ogni erba un fascio con questo santo, no? Ecco. Sant'Antonio è nato nel 251, quando c'era ancora in piedi, diciamo, l'impero romano e quindi ancora tutti gli dei del Pantheon pagano, e muore però 100 anni dopo, praticamente, quando c'è già l'editto di Teodosio che consacra i santi ufficiali, e quindi i pazienti che si rivolgevano agli dei del Pantheon olimpico piano piano si sono rivolti ai santi cristiani per invocare quello che necessitavano. Ovviamente il dolore era una delle prime cose per cui si pregava, e quindi Sant'Antonio da allora diventa il taumaturgo per eccellenza, e quindi tutti i dolori, soprattutto quelli gravi, quelli urenti che sentivano il bruciore, si invocava Sant'Antonio per cercare di avere un rimedio, e questo è andato avanti fino ai nostri giorni. Eh certo, infatti si dice il fuoco di Sant'Antonio. Professore, ma la famiglia degli herpes è una famiglia numerosa. Che cosa hanno in comune tutti questi tipi di virus? Ma gli herpes è una famiglia che attualmente conta almeno 8 fratelli, quindi non sono più i primi 2 o 3 che si conoscevano. Hanno in comune un fatto semplice: entrano quasi tutti nei primi anni di vita, della nostra vita, nel corpo. Nel 60, 70, 80% non danno segno di sé, ma rimangono dormienti per tutta la vita. In alcuni casi, quando le nostre difese si abbassano, fanno capolino, come diceva lei all'inizio, l'herpes classico è quello delle labbra, e quando noi siamo stressati, prendiamo troppo freddo, troppo caldo, troppo lavoro, viene fuori. Altri virus herpetici possono dare problemi in altre sedi, oppure in momenti della vita particolarmente stressanti, come può essere quando ci sono malattie immunodepressive. 800 24 0024 se volete parlarne con noi, 349 238 6666 se volete mandarci un messaggio, cosa che state già facendo. Professore, iniziamo dalla febbre, chiamiamola con il nome, noi la chiamiamo così, no? L'herpes labialis. Lei ha già anticipato che colpisce molto spesso quando siamo un po' stressati, oppure adesso è il periodo, si va a prendere un po' di sole e si ritorna magari un pochino più coloriti, ma ecco, si sente già quel pruritino sulle labbra. Sarà lui? Arriverà? Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Come dolce sognare abbracciato con te. Abbronzatissima. Professore, oggi a Milano è una giornata molto grigia, però insomma è tempo, no? È tempo di weekend. Dopo il sole è proprio il classico, anzi direi che è un iperclassico, perché generalmente quando uno prende sole non è stressato, è calmo, rilassato, contento di essere in weekend oppure in estate, ma questo ci fa pensare che se prendiamo troppo sole la nostra immunità si abbassa così tanto che, nonostante siamo calmi e tranquilli, il virus si risveglia. Possiamo fare qualche cosa? Mettiamo delle cremine, mettiamo dei filtri, insomma non c'è scampo per chi ha questa tra virgolette vulnerabilità? Insomma, la febbre dopo una giornata di sole è quasi assicurata? Ma il rimedio giusto sarebbe quello di prendere sole gradatamente, man mano che la stagione va verso il bello, di cominciare a suffare la pelle alla luce. Ovviamente questo è l'ideale. In pratica cosa succede? Succede che uno arriva a fine luglio e il giorno dopo si trova su una spiaggia a prenderlo, e quindi l'organismo non è preparato, e quindi è chiaro che un filtro solare può aiutare, però bisogna tenere presente che il filtro solare non è uno schermo contro i meteoriti e contro tutto il resto, aiuta ma non è sufficiente in una buona percentuale di casi. Mi scrive Matteo che anche senza prendere il sole gli viene spesso l'herpes sulle labbra quando è stressato, ma e si chiede, cosa che si chiedono in molti, ma che relazione c'è tra stress e queste pustoline così dolorose? Ma la relazione è che il nostro sistema immune dipende da tanti fattori. Alcuni sono banali: quando uno prende un'infreddatura il giorno dopo gli viene raffreddore. Cosa vuol dire? Che il virus del raffreddore si risveglia, e che è il contrario analogamente al fatto di prendere troppo sole, si risveglia l'herpes delle labbra. Però il sistema immune dipende anche dal nostro stato d'animo, e quindi quando c'è uno stress notevole noi consumiamo il nostro cortisone e quindi abbiamo un'immunodepressione transitoria, e quindi se dobbiamo prendere raffreddore prenderemo il raffreddore, e chi invece è più soggetto all'herpes rinnoverà l'esplosione del suo herpes. Abbiamo Carlo che ci chiama da Piacenza all'800 24 0024. Buongiorno. Buongiorno. Ho una piccola domanda per il dottore. Sì. Dunque, essendo soggetto a herpes labiale da sempre, la mia farmacista mi ha consigliato di assumere vitamina B in quantità, in modo da prevenirlo, ma soprattutto da fermarne in anticipo gli effetti più visibili, già dall'inizio, già dalle prime ore in cui si sentono i primi fastidi sul labbro. Volevo chiedere al dottore se questo è un... La vitamina B può aiutare oppure è inutile, in sostanza? Grazie Carlo per questa domanda. Sì. Professor Gelmetti. Allora, vitamina B, se uno ha una alimentazione regolare, non aiuta in maniera particolare per l'herpes simplex, quello delle labbra. Si dà invece in grossa quantità per l'herpes zoster, quello volgarmente chiamato, come si diceva prima, il fuoco di Sant'Antonio. Sant'Antonio, perché nell'herpes zoster quello che è danneggiato è soprattutto il rivestimento del nervo, il quale viene ricostituito in parte la vitamina B. Per la vitamina che serve alla, diciamo, l'herpes simplex, quello banale del labbra, è più utile la vitamina C, presa in quantità importante, quindi 1, 2 grammi, 3 grammi al giorno, soprattutto quando sappiamo che siamo in un periodo dove saremo a rischio, ad esempio se uno deve fare uno sforzo o affronterà la luce o il freddo, eccetera. Ma allora la C, che è un antiossidante. Quindi ogni herpes ha la sua vitamina. Beh, diciamo che ci sono momenti diversi per le vitamine. B per lo zoster e C per l'herpes labialis. Professor Gelmetti, però, chi ha dimestichezza con la febbre sa bene che ci sono delle avvisaglie che si manifestano in genere 10-12 ore prima della comparsa delle vescicole, e sa anche che questo è il momento migliore per intervenire. Si può giocare, non dico ad anticipo, ma insomma meglio muoversi. Che si fa? Allora, questo è vero, perché tutti i virus herpetici, comunque quelli che ci interessano più da vicino, quindi il simplex o lo zoster, partono da un ganglio nervoso e proseguono lungo il decorso del nervo fino ad arrivare alla superficie della pelle. In questo momento, prima ancora che la pelle si veda qualcosa, ovviamente il nervo è infiammato e quindi il paziente percepisce un pizzicorino, un fastidio, molto prima, molte ore prima che compaia. Allora in questo momento è ideale prendere o una terapia antierpetica specifica, quindi la Ciclovir alle dosi consigliate per il peso, oppure, se non c'è la Ciclovir, appunto un rifornimento importante di vitamina C. Prima si comincia, più è limitato il fenomeno eruttivo successivo. Anna, dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, posso parlare? Ma deve, Anna. Professore, aiuto, problema dell'herpes della cavità nasale. Come posso risolvere? Ho provato con la Ciclovir, non c'è stato verso. Aeromicina, niente, non so più cosa fare, soprattutto quando prendo un po' di sole. Professor Gelmetti, noi diciamo sempre herpes labiale, ma questo benedetto herpes cammina, cioè labbra e dintorni, possiamo dire? Ah, diciamo che ci sono due quasi gemelli, che sono, parlando del simplex, quindi sì, non parliamo della zoster, che sono l'herpes 1, che prende le parti alte del corpo, e quindi diciamo dalla vita in su, e quindi sostanzialmente le labbra o il naso o l'occhio, che è un po' peggio, o le orecchie, e poi l'herpes 2, che prende le parti inferiori, più basse rispetto alla vite, che prende quasi sempre i genitali. Sì. Le terapie sono sostanzialmente analoghe, ovviamente il fastidio è in funzione di dov'è, perché è chiaro che, come diceva la signora, il fastidio al naso è importante. La terapia non cambia, salvo che nel naso è più difficile vedere poi delle lesioni, quindi prevale il sintomo soggettivo. Se la terapia con la Ciclovir non porta un risultato sperato, bisogna verificare se il dosaggio è stato quello corretto. Bisogna dire che poche persone hanno una resistenza alla Ciclovir, ma questo è possibile. Allora, in questo caso, se c'è questa possibilità remota, ma c'è, bisogna cambiare proprio tipo di farmaco e, ad esempio, usare altri prodotti tipo il Foscarnet e altre robe. La vitamina C però può aiutare, e quindi prima di passare a farmaci, diciamo, più importanti e tossici, è meglio di fare una combinazione tra Aciclovir classico alla dose corretta e la vitamina C. Anche la dieta, alcuni accorgimenti a tavola possono, se non proprio, spegnere il fuoco, evitare che avvampi, che bruci. Buongiorno al dottor Filippo Ongaro, direttore sanitario dell'Istituto di Medicina Anti-Age di Treviso. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, ci sono degli alimenti che andrebbero evitati, almeno quando siamo proprio in pieno herpes, dottore? Ma io metterei in prima linea, nel caso dell'herpes, così come purtroppo di tante altre problematiche, gli zuccheri e i cereali raffinati, che sicuramente contribuiscono, diciamo, a fornire un carburante molto appetibile per il virus, e allo stesso tempo anche alcol e caffè, Ci sono poi dei cibi ricchi di arginina, che è un aminoacido che sembra in qualche modo contribuire allo sviluppo dell'infezione, come mandorle, per esempio arachidi e cioccolato, che andrebbero anch'essi evitati. Senta, abbiamo parlato insieme al professor Gelmetti, sollecitati dall'intervento di un ascoltatore, di vitamine, di vitamina B e di vitamina C. La dieta, se equilibrata e ricca, fornisce tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, ma che cosa ci dice lei? No, sono, infatti stavo ascoltando il professore sulla vitamina C, sono assolutamente d'accordo e come spesso in questi tipi di interventi la tempistica diventa ovviamente importante. In parallelo al discorso dell'arginina, che sembra favorire lo sviluppo dell'infezione, vi sono alcuni dati che sembrerebbero invece dare alla lisina, un altro aminoacido, un'azione in qualche modo preventiva. Dove la troviamo la lisina? Ecco, questo per esempio è da favorire nel momento in cui c'è l'infezione, il pesce per esempio, i legumi e ovviamente la frutta, la verdura in abbondanza. Poi ci sono anche dei bioflavonoidi che possono essere utili, come le catechine, la quercitina e anche alcuni fitonutrienti che hanno un'azione antinfiammatoria, l'aloe per esempio, la liquirizia, o tutto quello che stimola il sistema immunitario, come per esempio l'echinacea o la papaya. Ecco che quindi, diciamo, l'intervento può essere da un lato di togliere un po' di carburante, da un altro abbassare l'infiammazione, può essere ovviamente associato a una stimolazione del sistema immunitario, un intervento da aggiungere a interventi più specifici, anche ovviamente con farmaci. Grazie dottor Ongaro per essere stato con noi. Ritroviamo il dottor Ongaro nel nostro Daily Lab, il nostro laboratorio del benessere, dove ogni giorno i nostri esperti vi suggeriscono dei consigli per mantenervi in forma. Naturalmente per visitare il nostro Daily Lab, per entrare, molto semplice, basta andare sul nostro sito www.radio24.it e cliccare su Daily Lab. C'è la mia faccia con le mele, ma soprattutto, questo non importa, soprattutto ci sono i consigli dei nostri esperti. Essere e benessere. Luca, ti consiglio di lasciare quel caffè. Cosa fa? Minaccia al bastardo? Perché se no mi tiri una calcolatrice in testa? Ah, come vuoi Luca, io lo dicevo per te, visto che mi è venuto l'herpes. Non mi ha infettato! Adesso devo pulirti, devo disinfettarmi! Beh Luca, devo disinfettarmi! Non è colpa mia, io ti avevo avvisato. Imbecille, proprio stasera che dovevo uscire con Alex. Ma Luca, non è colpa mia, scusa. Appena ti esce questa roba in faccia, tutti ti prenderanno in giro 24 ore su 24. Professor Gelmetti, lei che cosa avrebbe fatto? Ce l'ho, è quasi assicurato che bevendo magari dalla tazzina di un collega che ha l'herpes, no, ce lo becchiamo, diciamo, anche noi. È molto improbabile. Diciamo che è molto improbabile, quindi. Perché l'herpes, come abbiamo detto prima, uno se lo prende quasi sempre nei primi 2-3 anni di vita e poi rimane più o meno tranquillo a seconda di una persona, quindi è molto improbabile che un adulto non l'abbia preso quando era un piccolo bambino. Professor Gelmetti, lei nel suo libro, che devo dirle mi è piaciuto moltissimo. Grazie. E lo ricordo anche ai nostri ascoltatori, Il fuoco di Sant'Antonio, storia, tradizione e medicina, proprio mi è piaciuto per questo intreccio. Lei riporta anche dei rimedi popolari che venivano così utilizzati per l'herpes zoster, di cui parleremo tra poco. Però devo dire che anche i nostri ascoltatori sono bravi, e riguardo all'herpes labialis mi stanno scrivendo tanti sms dicendo faccio così e va via. Ad esempio, molti, almeno 7-8 messaggi mi arrivano sul dentifricio, ma un'ascoltatrice, Anita, mi dice non quello sbiancante. Si passa poi al bicarbonato, vanno molto limone e sale, anche aceto nello specifico di mele e l'acqua ossigenata. Professor Gelmetti, se lei non è svenuto ci può dire se questi rimedi funzionano, no, e se hanno un senso. No, allora va detto che alcune cose hanno un'azione nota, stranota. Ad esempio usare il sale ha un'azione duplice: una, ha un effetto antisettico importante; due, il sale sale igroscopico per cui mi asciuga le vescicole in tempi brevi. Sì. E questo ovviamente lo fanno anche gli acidi, eccetera. Per quanto riguarda la famosa terapia del dentifricio, che è nota, stranota, come vede anche tra gli ascoltatori, ci sono delle difformità, perché una ascoltatrice dice il dentifricio sì, ma non quello sbiancante, e l'altro dice esattamente il contrario, sì, quello bicarbonato, che invece, come tutti sanno, si usa, il dentista usa poi alla fine per sbiancare i denti. Allora, la verità è che il dentifricio ha dentro delle polveri antisettiche, alcuni casi antisettiche, in alcuni casi come bicarbonato, che ha un'azione antinfiammatoria, eccetera, che hanno un'azione assorbente, cioè la polvere assorbe l'acqua e quindi fa quello che sostanzialmente fa il sale. E quindi tra il bianco e l'asciugare la vescicola, ovviamente l'effetto terapeutico è discreto. Andiamo a Giovanna, che ci chiama dalla provincia di Bari, 800 24 00 24. Buongiorno Giovanna, benvenuta. Buongiorno a tutti e grazie per l'intervento. Io conosco molto bene l'herpes labiale, ho avuto anche l'herpes zoster. Sì, insomma non si è fatta mancare niente, Giovanna. Probabilmente anche la varicella da piccola. Adesso come madre mi sento responsabile, perché ho una bambina di 9 anni che da un anno le si è manifestato anche a lei, e quindi credo di averglielo trasmesso io. Tra l'altro ne ho anche un'altra di bambina, però non l'ha mai avuto per il momento. Sì. Il problema è che la bambina nel giro di un anno l'ha avuto già 3 volte, credo. E l'ultima volta si è manifestato in maniera abbastanza, voglio dire, aggressiva, perché dalle labbra poi l'è passato nel naso e poi ancora vicino l'occhio. Aia. Ora io volevo sapere con certezza se le altre parti del viso erano state contagiate dallo stesso labbro, che ne so, con il tocco delle mani, delle dita. Sì, perché perché a volte si dice così, per non toccarti, non ti toccare, che non ti toccare. Vorrei sapere, professor Gelmetti, è vero? Che cosa no, si... No, nel senso che è la prima volta che si rischia veramente grosso, quando il paziente riceve l'herpes per la prima volta, che di solito, come giustamente diceva la signora, nei primi anni di vita l'organismo non ha assolutamente anticorpi, quindi l'herpes può prendere qualsiasi zona e per qualsiasi ampiezza di area, e quindi è chiaro che se prende il labbro, in fondo è meglio il labbro, ad esempio, della cornea, quindi l'occhio. Certo. Una volta che l'herpes è entrato, io uso sempre questa analogia per spiegare ai miei studenti, è un po' come il rimbalzo di una palla, ma non di un pallone da calcio, di una palla ovale. La palla ovale, quella da rugby, quando rimbalza, le prime volte rimbalza in maniera irregolare, dipende da come, se batte sulla parte larga o sulla parte stretta. Chiaramente alla fine dei rimbalzi si fermerà anche la palla ovale, però i primi sono relativamente più imprevedibili. Dopo 10-15 anni notoriamente l'herpes acquista una sua ripetitività molto molto tran tran, molto banale, però le prime volte sono abbastanza bizzarre, ma non c'è rischio di complicazioni importanti, come invece possono avvenire, anche se raramente, la prima volta. E io andrei a parlare dell'herpes zoster, insomma il fuoco di Sant'Antonio. Andiamo. Herpes deriva dalla parola greca herpein, che significa strisciare, e vuole probabilmente evocare il movimento e le figurazioni del serpente. Zoster deriva da un'altra parola greca, zona, che vuol dire cintura e che descrive il classico percorso di uno zoster toracico. Sinonimo di zoster è infatti la parola zona, che è usata comunemente nella letteratura medica francese. Shingles è il termine inglese comune per indicare l'herpes zoster e deriva dalla parola latina cingulum, e quindi significa cintura, esattamente come i termini zoster e zona, che derivano invece dal greco. Professor Gelmetti, questo benedetto fuoco spesso non dà problemi solo quando esce, ma anche quando non c'è più niente. Molte persone avvertono proprio questa cintura dolorosa, questa pelle che all'apparenza non ha nulla, ma sentono proprio questo dolore strisciante, erpetico si dice, anche per lì con gli aggettivi. Più che altro urente, come giustamente urente vuol dire che uno sente il fuoco, come se fosse un fuoco. Sì, il motivo è che soprattutto nelle persone non più giovanissime, diciamo, quello che viene danneggiato, oltre all'infiammazione del nervo, che è ovvio, è la guaina, cioè il rivestimento del nervo. Il nervo è come un cavo elettrico che ha la parte conduttiva al centro e poi una specie di gomma fuori che lo isola. Il danno acuto è sul nervo e uno sente le stilettate, il fastidio, il prurito, il bruciore. Il problema è che se viene danneggiata il rivestimento esterno, quella che si chiama la guaina mielinica, ovviamente anche quando l'herpes è andato e tornato a cuccia, come si dice, il nervo rimane scoperto e quindi una delle sensazioni è come quella di un cavo elettrico scoperto, ogni tanto dei piccoli colpetti, delle piccole stilettate che si possono ripetere per tanto tempo. Ed ecco perché è importante, soprattutto se il paziente non è più un ragazzino, che la terapia anti-zoster sia rapidissima, perché in questo modo non solo noi daremo sollievo al paziente, ma impediremo un danno alla guaina del nervo. Senta, a proposito delle ricette popolari che citavamo prima, lei nel suo libro ne cita una che viene dalla Sardegna, precisamente dal paese di Villa Massargia, dove la malattia viene chiamata Fogu Friru. La persona che fa questa medicina deve avere fatto come primo mestiere il porcaro. Mette dell'olio in un piatto, sfrega una lima d'acciaio su una pietra focaia, provocando delle scintille che devono colpire sia l'olio sia la parte malata. Utilizza l'olio per frizionare la parte malata sino alla scomparsa delle bollicine. Più scintille vengono prodotte, più si impaurisce il malato e più la cura è efficace. Beh, questo è un rimedio, professore, però insomma c'era anche chi passava poi a delle soluzioni molto più decise, no? Più invasive. Ma sì, bisogna dire che la Sardegna è una miniera di cultura popolare, come devo dire altre regioni, ma la Sardegna soprattutto sia nelle pratiche come questa, che sono pratiche magiche, e quindi il fuoco scaccia un altro fuoco, sia come utilizzo della medicina popolare, quindi la fitoterapia. Ci sono tantissime ricette che variano da sede a sede e tra l'altro questo è confermato anche dal numero di paesi che hanno come festa popolare annuale proprio la festa di Sant'Antonio. E tra l'altro in Sardegna vengono fatti anche dei pani speciali, dei dolci speciali in relazione alla festa, che è il 17 gennaio. Ci chiama Renzo dalla provincia di Modena e poi andiamo subito ad Anna dalla provincia di Milano. Buongiorno Renzo. Buongiorno, vorrei chiedere informazione al professore. Sì. Mia figlia, fin dai primi mesi di vita, sopra alla sopracciglia destra, compariva delle bollicine, però non è mai stato riconosciuto. Solamente pochi anni fa, appunto, un medico ha riconosciuto che era un herpes zoster, perché veniva sempre curata come herpes normale. Solo che questa cosa qui gli dà dei problemi, che bloccando il collo, come diceva appunto il professore, che colpisce il nervo, di conseguenza ha dei problemi anche all'occhio, che fa fatica a muoverlo, diciamo così. Volevo chiedere come si fa a riconoscere il simplex dallo zoster per bloccarlo in tempo, diciamo, questa cosa, perché l'ultima volta siamo finiti anche all'ospedale per negligenza forse dal medico, che non ha dato importanza e che noi avevamo detto appunto che era un herpes zoster. E non vi ha creduto Renzo? No, che la medicina costava molto, che non si poteva, che bisogna andare da uno specialista, allora abbiamo dovuto ricorrere allo specialista, è tutta una prassi insomma che... Sì, e intanto non si perde tempo, oltre sì, che si sente dolore, certo. Pagato per tutto, insomma è un problema. Ma, insomma. Professor Gelmetti. Allora, in via di massima, l'herpes simplex tende a recidivare abbastanza frequentemente, lo zoster invece recidiva rarissimamente nella vita, può recidivare due volte, i casi di recidiva di tre sono rari e quindi a spanne l'herpes simplex recidiva decine di volte nella vita, come sanno tutti quelli che hanno il classico herpes labiale, mentre lo zoster difficilmente recidiva uno, due o tre volte. È chiaro che ci sono le eccezioni. Allora in questo caso, dato che la terapia cambia in maniera importante, perché lo zoster ha una sensibilità alla ciclovir che è un quarto e quindi la dose deve essere quadruplicata, perché sennò non serve evidentemente, bisogna fare la distinzione. La distinzione è possibile con varie tecniche, tra cui la biologia molecolare e quindi l'analisi del DNA del virus, che è disponibile negli ospedali policlinici universitari. Quindi non è poi così difficile, basta come sempre finire nelle mani giuste, no? Sembra facile, ma poi alla fine... Sì, diciamo, non è un esame di routine, ma è possibile. Essere e benessere. Siamo tornati con Anna dalla provincia di Milano. Buongiorno Anna, benvenuta. Buongiorno. Volevo chiedere al professor Giometti, per mio papà che 4 anni fa ha avuto un attacco di fuoco di Sant'Antonio conseguente ad una forte immunodepressione da chemioterapia, sì. Il dolore non è mai più passato, è stato colpito a un nervo della zona cervicale, quindi tutto il braccio sinistro è interessato e tuttora appunto ogni giorno, quando più e quando meno, ma proprio dolori, bruciori, fili elettrici scoperti, eccetera. Volevo sapere se oltre alla lirica che prende ormai da 4 anni c'è qualche cura specifica o qualche aiuto in più. Professor Gelmetti. Classico caso che dicevo prima, nel senso che paziente anziano, immunodepresso, abbiamo il cocktail micidiale, per cui il danno non è tanto hic et nunc al momento, ma è un danno proprio sul rivestimento del nervo, il quale è molto molto poco riparabile stante l'età avanzata. Se il bambino avesse 5 anni invece di 80, la cosa sarebbe molto diversa, tant'è vero che nei bambini, ad esempio, è una cosa che magari molti colleghi sanno poco, nel bambino lo zoster corre incredibilmente asintomatico, cioè il bambino magari ce l'ha, anche se raro, ma non se ne accorge nemmeno. Proprio nell'adulto se ne accorge, e nell'anziano se ne accorge anche dopo. L'irica, che è la gabapentina, è il trattamento corretto, anche se ha un effetto antinfiammatorio in parte specifico, ma purtroppo non ristrutturante sulla parte di rivestimento. Forse un tentativo di megadose di vitamina B per uso intramuscolare può essere fatto senza rischio, certo. Questo lo farei. Grazie al professor Gelmetti per essere stato con noi. Ricordo, leggetevelo, Il fuoco di Sant'Antonio, anche se non avete Il fuoco di Sant'Antonio, storia, tradizione e medicina, Springer editore. Professore, grazie, buongiorno a lei, grazie. A presto. Grazie, alla prossima, grazie a voi. Le abbiamo un po' provate tutti, alcuni arrivano altri rimedi, soprattutto per l'herpes labiale. Un ascoltatore mi dice, non so, sono arrivato un po' tardi, ma avete ricordato il ghiaccio? Io invece vi suggerisco gli aghi. È nota, è certificata tra virgolette l'azione antalgica degli aghi, e dato che le manifestazioni erpetiche sono molto dolorose, voglio capirne di più insieme alla dottoressa Tiziana Donofrio, direttore scientifico del Centro Studi per le Medicine Naturali IDO di Teramo. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno. Allora, e se provassimo con gli aghi, mi chiedo io? Se provassimo con gli aghi potremmo avere la sorpresa gradita di stare molto meglio e magari di uscire proprio a trattare quel dolore cronico di cui sentivo parlare la signora alcuni istanti fa. Infatti, grazie agli aghi noi riusciamo a veicolare queste tossine, tra virgolette, nel tessuto nervoso. Nell'agopuntura sono canali di energia, in realtà, quelli che noi trattiamo. Riusciamo a trovare una via di eliminazione del virus e quindi proprio a risolvere sia il dolore acuto, quindi a trattare. Sì, quindi da sollievo. Dopo da quante sollievo, sedute sì. Possiamo pensare di essere in qualche modo così guariti, tra virgolette? Tra virgolette, guardi, nel caso in cui ci sia un herpes acuto, quindi noi abbiamo la fortuna di iniziare la terapia in brevissimo tempo, appena compaiono i primi segni, la guarigione, sempre tra virgolette come la stiamo definendo, potrebbe avvenire anche nelle prime 6-12 ore dal trattamento, quindi immediata. Quindi meglio farla quando siamo in preda al fuoco. Sì. O appena abbiamo i primi segni, ormai chi è affetto da questa patologia già riconosce i segni che cominciano già dall'inizio a dare idea della patologia che sta arrivando. Al contrario, se invece la patologia cronica come quella di cui parlavamo, lì saranno necessarie almeno 6-8 sedute, quindi un trattamento a settimana per circa 2 mesi, perché lì sarà necessario un tempo più lungo, un'applicazione più lunga degli certo, un trattamento sì, sì, sì. più prolungato. Certo, certo. Dottoressa D'Onofrio, la ringrazio per essere stata con noi e le auguro una buona giornata. Grazie a voi, grazie, buon proseguimento. Grazie, buona noi giornata. Abbiamo parlato di varicella, no? È il virus responsabile del fuoco di Sant'Antonio e sappiamo che questo è un periodo particolarmente caldo per le malattie infettive. Vi siete mai chiesti perché molte delle mie amiche con bambini piccoli mi dicono: ma sai che si è presa la varicella, mio marito, non, suo papà non l'ha ancora fatta e poi ho mia nuora che è incinta, oddio. In linea con noi abbiamo il professor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Professore, che piacere averla con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, in primavera ci sono le malattie infettive. Come mai? Alcune malattie infettive, ce ne sono di quelle invernali, che sono l'influenza, di quelle estive, come la febbre del Nilo occidentale. In primavera, in modo particolare, ci sono queste malattie, diciamo, infettive dell'infanzia, o perlomeno definite come dell'infanzia, dopo vedremo che non è sempre così, come il morbillo e la varicella, tendono ad avere una maggiore diffusione. Non mi chieda perché non lo sa nessuno, perché è chiaro che l'inverno crea concentrazioni di persone, per esempio di bambini, adolescenti all'interno delle scuole, si crea concentrazione nei cinema, i virus circolano più velocemente. Perché in primavera anche si verifichi questo fenomeno è difficile da definirlo. Senta professore, io vorrei proprio in chiusura rispondere ai timori, alle preoccupazioni di molti dei nostri ascoltatori che magari non hanno avuto la varicella, non hanno preso il morbillo, si ritrovano, ritorna a casa il ragazzino, il bambino da scuola e con le prime pustoline. Che cosa si fa? Esistono i vaccini, è sempre meglio vaccinarsi prima, nel senso che a volte quando uno dopo scopre che il bambino ha già i sintomi, magari per esempio come succede per il morbillo, il periodo contagioso inizia anche uno o due giorni prima della comparsa dei sintomi e quindi è passato troppo tempo e magari non si fa tempo a intervenire col vaccino. Bisogna sempre provarci, però è meglio vaccinarsi prima. Non si è avuto il morbillo da piccoli, se non si è avuto la varicella è meglio vaccinarsi. Perché prendersele da adulti è dura, noi abbiamo avuto Marco Tulli con la varicella e sappiamo, ci ha raccontato dei giorni un po' bollenti. Si passa un guaio, si può prendere qualche farmaco, per esempio la Ciclovir, è un antivirale che deve essere preso a dosi abbastanza elevate e appena compaiono i sintomi può attenuare il decorso della malattia, sto parlando della varicella, però chiaramente da adulti si passa sempre un guaio. Insomma, meglio farsele da piccoli, nel caso, come ce ne siamo fatti noi, molto probabilmente, o vaccinarsi. Professor Rezza, grazie, è sempre grazie un piacere voi. Averla con noi, le auguro una buonissima giornata. E noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Voilà, anche per oggi ce la siamo passata bene. Buona giornata. Essere e benessere.